Slitta al 12 dicembre il passaggio di consegne per Alitalia, per impossibilità tecniche. Anche se, per dirla con le parole del commissario straordinario Augusto Fantozzi, a partire da ieri la CAI si assume i costi della compagnia aerea. Stesso prezzo di acquisto per Alitalia, 1.052 miliardi. Premessa necessaria però è che il 4 dicembre si avverino le nuove condizioni per l'esecuzione del contratto fra CAI e Alitalia. Si tratta di un diverso accordo che integra l'offerta del 19 novembre scorso, anche perché alla scadenza del precedente contratto mancavano il nulla osta della competente autorità antitrust e la relazione del monitoring trustee europeo. Ma Fantozzi avverte: se per qualsiasi ragione si dovesse verificare un altro slittamento della data di trasferimento del complesso di beni e di contratti rispetto al 12 dicembre 2008, tutti i rischi e i benefici, nonché gli effetti positivi e negativi, dal 13 dicembre, sempre 2008, saranno a carico e beneficio di CAI. Giallo invece sulle lettere di assunzione dei piloti, che per il commissario straordinario sono in arrivo, mentre il leader dei piloti dell'ANPAC, Fabio Berti, nega. Certezza invece per gli utenti, in nome della sicurezza, confermata la riduzione dei voli. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore.